Bentornati su Radio Wombat, Wombati Rapusi e queste sessioni notturne. Gustatevi questa nostra meravigliosa sigla. Sintonizzati, inizia la trasmissione. Mars e Vintro, Radio Wombat in onda. Per la lezione sulla doppia selezione di tracce bomba da collezione. In missione notturna come un pescatore. Tu cerca altrove se vuoi musica di merda. Se vuoi il contrario schiaccia play e segui la diretta. Culla da stanco, una spinta se vai di fretta. Imposta sessioni notturne sulla giusta frequenza. Vieni Marione, spara più in chiave. La giusta. Ah, la porta. È perché volevo fare la doppia sulla culla. Sulla culla e sulla. Ma culla no. Bentornati su Radio Wombat per sessioni notturne. Vi sarete goduti per l'ennesima volta questa meravigliosa sigla piena di tecnicismi e meraviglie, per cui ci teniamo di nuovo a ringraziare il Cero che ci ha graziati con la sua disponibilità. È stato molto gentile. È stato molto gentile e molto bravo, molto professionale. Allora, vi sarete accorti tutti, più o meno nonostante il meteo non ci dica esattamente la verità, che siamo entrati in un mese pieno di buoni propositi, almeno. Sì, siamo a maggio. Per stereotipo, siamo a maggio. Anche se guardi fuori dalla finestra sembra che siamo tipo a novembre. Sì, esatto, è terribile. Sembrava una cosa strana. Sì, no, è orribile, però siamo a maggio, abbiamo deciso di festeggiare insieme l'inizio di maggio con la meravigliosa festa del primo maggio a tema Wombat anche. Vabbè, dico io cosa abbiamo fatto, dai. Allora, abbiamo deciso di prendere i dischi usciti a maggio negli ultimi anni di pop italiano-americano. Mm-hmm. Abbiamo detto, vediamo che cosa è uscito, no? Iniziamo maggio con tutti i dischi usciti a maggio, anche perché non sapevamo cosa fare nella puntata di oggi. Sì, esatto, siamo ricchi di buona musica ma non di buone idee, quindi esatto. Però è venuta fuori una bellissima puntata con dei bellissimi dischi, siamo molto fieri, esatto. Di e oltretutto oggi non abbiamo problemi tecnici. No, infatti non si sentono frusci, non si sente niente, era come minimo. Anzi, non ho in mai realtà sentito... loro stanno sentendo. Non ho mai sentito così bene in cuffia in vita mia. Però guarda lì la lineetta, è molto bassa. Immagini, sì. Dopo controlliamo. Controlleremo. Si sente bene anche Apollo Brown. Allora, cominciamo con questo primo pezzo. Lo annunci te, lo annuncio io. Eccolo. Allora, adesso abbiamo Method Man, un grandissimo rapper che conoscete tutti, che non abbiamo ancora passato, oltretutto, insieme a un altro sacco di rapper che non abbiamo passato. E oggi abbiamo deciso di farvi sentire un disco di Method Man uscito nel 2004 a maggio, il 18. Ho detto tutto al contrario. Vabbè, ma si è capito. Ok, vi facciamo sentire What's Happening con Busta Rhymes dell'album Tikal Old Prequel. Un attimo che alzo il volume. Ok, adesso metto il pezzo, chiudo i microfoni e dopo me ne vado. Hey, yo, Jacal. What up, fam? You know Buzz had to come see you guys. It's good to see you guys. Good to see you too. Let's take the streets for a little ride. Okay, we riding high. Yeah, you better light your L, smoke your L, and just kiss the sky. And if you ask for disrespect, bust a man. Fight that man, job. I think the streets been looking for this one for a long time. Yeah. Come on! I came to bring the pain, more hard to the brain. I'm busting that ass again. I burn like acid rain, that acid flame. These niggas trying to see how I come at your game. Ain't it evident I'm hatin' it? Yes. Meth for president, be in hell with gasoline drawers just for the hell of it. And I ain't delicate, blows hot as kettle get nap. You ain't fucking with that, you must be celibate. Bad, just a little, got a sack. We can sizzle a little hash in the middle. Where that? In the middle, yep. Mommy, if you got a fat ass, make it jiggle, yep. Put it in my next video shot by Little X. Sending me up, gon' work till there ain't any left. I'm trying to get what I'm worth and not a penny less. Ain't fast. Come on. Bank cash. Come on. Everybody do it with your stank ass. Better make you rob somebody. What? Grab somebody. What? Stomp somebody. What? Slap somebody. What? Make you wanna step to the bar and sip a Cardi. Wild out spazz in the club, we in the party. What? Brooklyn. Come on. Shaolin. Come on. Queensbridge down to Long Island. nigga. Come on. Manhattan. Come on. To each and every hood, what's happening? Come on. Real talk, yeah. Hey, let me get at these niggas. Yeah. Yo, now watch me back your shit up. I hope your people pull up and pick up and pack your shit up. Homie, it's time to move. While I'm seeing right through you, let me relieve you with all of your figures. See the streets, you never believe in you niggas. Come on. Go ahead and babble. You can watch me patiently wait and aim and attack you. Instead, I'ma let one of my bitches slap you. I invite you and your niggas to try it and feel the wrath of the unruly awakening of a sleeping giant. Very defiant. Once I give you the pressure and then I apply it, and then your breathing is stopped, it's totally quiet. Captain of the ship, so call me the pilot. I'll leave you and your crew on Kalanami diet. Stop on a nigga! Just like a herd of 1,000 cattle that'll travel over your face and frazzle your shit. Chop you worse than a brick and then retorture you and then get to reppin' and get to steppin', nigga. This shit'll make you rob somebody. What? Grab somebody. What? Stomp somebody. What? Slap somebody. What? Make you wanna step to the bar and sip a Cardi. Wild out, spaz in the club, we in the party. What? Brooklyn. Come on. Shaolin. Come on. Queensbridge down to Long Island. Come on. Bronx, nigga. Come on. Manhattan. Come on. To each and every hood, what's happening? Come on. Yeah. Truthfully, come my on, nigga. Niggas, listen, let me talk. Let me talk. Can't you see what I got for you now? Shake a big fat ass in front of me now. To all my high bidders, to all my live niggas. We hit a blackout, follow the story now. Just feel my heat, and you know I'm gonna just keep it street. Yeah, my nigga, did you know what you're about to lose it? My nigga, and you know we gon' get real stupid. My nigga, see the police coming, what? Fireman coming, what? Street niggas ready to ride and start dumbing. What? I love to see it whenever you and your man fronting. What? Me and Memphis step to your quick. Now who is he? Yo, BC, killing these cowards. Whack niggas get pimp slapped. Give me some powder. Click clack, run in your back. Now think about it. Get back, run in your gap. I can't allow whatever, it. Whatever, niggas. Set it off. You know we seeing it through, God. The street be needing niggas like me and you, God. Hey, yo. I think when I'm seeing from here, we got them wildin', yo. Logical, we should've did this shit a long time ago. I got that shit that make rappers shit in their shoes. Nasty MC. I spit blows and spit in their food. Man, don't tempt me. I'm nothing like a curious child. I'm simply a boy in the hood with furious this styles. This shit'll make you rob somebody. What? Grab somebody. What? Stomp somebody. What? Slap somebody. What? Make you wanna step to the bar and sip a Cardi. What? Wild out, spaz in the club, we in the party. What? Brooklyn. Come on. Shaolin. Come on. Queensbridge down to Long Island. Come on. Bronx, nigga. Come on. Manhattan. Come on. To each and every hood, what's happening? Come on. Yeah. Every day, yeah. Every rotation. Come with yeah. It. Let me talk. Come on. Ah. Hey, yo, God. Yeah, Lord. Flip my Wu-Tang, nigga. Ain't that some shit? That's some shit. Action truthfully, bust a bus. Left the cow. Yeah. Yeah. Hey, let me know when you want to do that again, guys. Sure, we can do it right now. Yeah. Shout out to you. Woo! Pezzone dal live, comunque. Molto più dal live che dal radio, però è sempre bello sentirlo anche in radio. È un pezzone, è un pezzone. Mm. Un pezzone. Busta Rhymes si supera sempre con le sue... sempre velocissimo Busta Rhymes. Parliamo un po' di Method Man. Parliamo un attimino di Method Man. Lo conoscete tutti, Method Man, membro del Wu-Tang Clan. Un sacco di dischi solisti. È stato l'unico ad aver collaborato con B.I.G. nel suo primo disco Ready to Die. Non diciamo, non stiamo dicendo baggianate. Oltretutto e ha collaborato anche con Tupac nell'album All Eyes on Me. Quindi è uno che ha collaborato con i pesi massimi praticamente. Scusate, c'è un po' di raffreddore. Questo era il suo terzo album solista con 20 tracce prodotte da RZA, sempre membro del Wu-Tang e storico produttore. Oltre i suoi compagni nel disco ci stanno Redman, Snoop Dogg e Busta Rhymes in questo pezzo. Basta, di Method Man non possiamo. Se parliamo solo di Method Man finiamo la puntata. Quindi ci spostiamo nella calda Italia del maggio sempre 2004, quindi in contemporanea siamo 10 giorni dopo l'uscita del disco di Method Man. Come passa il tempo? Come passa il tempo? Esattamente nello stesso mese, dello stesso anno, nella calda Calabria. No! Ma che? Nella calda Calabria cosa succede? Calabro 9, che è Turi, fa uscire il suo disco probabilmente più riconosciuto a livello tecnico, a livello anche di pezzi, è quello che lui preferisce e che probabilmente è quello anche che l'ha portato al suo successo del momento, anche se adesso è un po' che non si fa più sentire. Quindi stiamo parlando sì dell'Amico degli Amici, disco di Turi del 2004, e il pezzo che abbiamo deciso di passarvi è Insieme al Danno, da cui ormai abbiamo deciso che tutte le puntate passeremo, è diventato il nostro amico, ci scrive lui. Il pezzo è Cartoline dall'Inferno e poi parliamo un po' anche di quest'artista qua. Vado? Sì.

si arrabbieranno molto. Sì, si arrabbierebbero tantissimo probabilmente. Allora, Turi ancora non l'avevamo passato da solista, l'avevamo passato nel in Come vada, comunque vada sarà un successo. E l'avevamo passato sì in Roma 2000 quando rappava in russo insieme al Piotta e, però ancora da solista non l'avevamo mai passato. Salvatore Scatta Reggia, anche conosciuto appunto come Turi, Funky Turi negli ultimi tempi, Calabro 9 nei primi e Tony Baretta per pochi, è uno che ha fatto tanto nel passato, ha fatto tantissime jam session e tantissimi contest. Ha iniziato così, inizia nel 94 lui e si fa strada subito, inizia subito a campare di questo, e anche beatmaker, produttore, ha fatto tante produzioni e appunto fonda, se non sbaglio nel 96 giù di lì, con Robba Coatta insieme al Piotta e a Squarta, DJ Squarta, e poi proseguono facendo una serie di lavori fino a che nel 2001, no? Comincia la sua carriera solista e ognuno prende le sue strade. E cosa può uscire? Cosa può uscire? Ah, salviamo il salvabile, dici. Ah, sì, sì, Turi, non capivo di chi stavi parlando, di Turi, di Squarto, del Piotta. Ma no, comincia la carriera solista. E ah, sì, sì, sì, Turi inizia la sua carriera solista con Salviamo il Salvabile, che è un altro album di tutto rispetto, anche se non raggiunge i successi dell'Amico degli Amici, che secondo me, almeno questa è opinione personale, ha tutto un altro sapore. Non lo so, a me piace più Salviamo il Salvabile. Lo so, me lo immaginavo, anche perché me lo immaginavo. Anche sì. Se l'Amico degli Amici è in discone, sono discone, due sì. Dischi diversi. Ci sono un sacco di collaborazioni bellissime nell'Amico degli Amici, cioè. Tra cui quella col danno. Col danno, tra Caos, cui Tempesta del Secolo Chiave. Con Caos. Una vedaccia. Bene, bene, salutiamo il nostro Salvatore, il nostro Turi. Ciao. E saltiamo, andiamo all'anno dopo. Ma torniamo in America. Ciao. Andiamo al 24 maggio del 2005, dove un signor qualunque chiamato Common fa uscire il suo disco numero 1, 2, 3, 4, quinto, non mi ricordo. Vabbè, comunque, sesto. Non sì, mi ricordo. Penso, un disco. Parliamo di Common, che ha fatto uscire il disco B. Un disco Common che ancora non abbiamo mai passato, scusami. Non ti preoccupare. Non abbiamo mai passato, fra l'altro. Sì, infatti, gran peccato veniale. Strana. Sì. Il nostro buon Common con questo disco prodotto interamente da Kanye West. E non vi nascondo che quando l'ho scoperto ci sono rimasto un attimino tipo... Che cosa? Davvero? Ma discone. Io credo che invece Kanye West musicalmente abbia del talento. Sì, poi vabbè, è un personaggio discutibile in tutto e per tutto. Però erano anni in cui non potevo sapere che Kanye West fosse un producer. Che lo conoscevo, sapevo che rappava. Per il resto, oh mio Dio, Kanye West comunque ha fatto Common così spacca di tutto. E quindi adesso vi ascoltate Common. Adesso vi ascoltate l'intro del disco B, perché secondo me è uno dei pezzi più belli del disco. Sì. Anche se l'intro è oltretutto c'è un bittone, raga, c'è un bittone. Parto. Prego, prego. Grazie. As the spirits of those who left, I'm talking Malcolm, Coltrane, my man Youssef, through death through conception. New breath and resurrection. For all new steps in a direction in the right way. Told inside is where the fight lay. And everything a nigga do may not be what he might say. Chicago night stay. Stay on the mind, but I write many lives. They lay on these lines, weigh the signs of the times. Many say the grind's on the mind. Shorty's blinded out and everyone wanna rhyme. Bush pushing lies, killers immortalized. We got arms, but won't reach for the skies. Waiting for the Lord to rise. I look into my daughter's eyes and realize I'ma learn through her. The Messiah might even return through her. If I'ma do it, I gotta change the world through her. Furs in the bins, gramps wanting them. Demons and old friends, pops, they hunting them. The chosen one from the land of the frozen sun. With drunk nights, can remember more than sober ones. Walk like warriors, we were never told to run. Explore the world to return to where my soul begun. Never looking back or too far in front of me. The present is a gift, and I just wanna be. Eccoci su Radio Wombat, questo era Common, intro di B, disco del 2005, uscito a maggio per l'appunto, per chi molto si fosse sintonizzato adesso. Sì, perché molto corto, molto adesso. Breve, ma molto ricco. Momento di silenzio e riflessione. Ah, per sentire... Ah, sì, il beat tape di sotto potremmo annunciarlo, aspetta. Ah, eccolo. Il beat tape di sotto abbiamo un signor beatmaker, tutto sì. Quello che vuole, ma veramente signor. Un signorone proprio. Sì, oggi abbiamo scelto, dopo l'ultima puntata dove non c'era un beat tape di sottofondo, dove sì. Parlavamo col silenzio alla base, no, con il fruscio, per sottolineare che... la serietà della puntata. Oggi invece abbiamo deciso di mettere Apollo Brown sì. Con il suo disco strumentale Make Do, che ha tipo 37 tracce, ne abbiamo prese 14 perché il tempo passa. Quindi parlavamo di Common Sense, classe 72. È un attore, un rapper, un attivista. Secondo me gli manca scrivere un libro. C'ha una faccia un sacco simpatica. C'ha una faccia simpatica, sì. Tutto, appena lo vedi in un film lo riconosci. Quello è Common, sì. anche se lo vedi di traverso, di sfuggi. Quello è Common. C'è proprio la classica faccia simpaticone. Common, ragazzi, ha cominciato nel 92 a rappare. Nel 94 fa uscire già il secondo album. Ci sono i classiconi di Common conosciuti in tutte le ere, come I Used to Love Her, che è stato uno dei primi pezzi, oltretutto dove ci si riferiva all'hip hop come una donna. Quindi cioè, parlando, capito, della musica, capito, questo, un po' come Cose Preziose, non ti ricorda sì. Anche a te? Non ti sembra sì, un sì. Pezzo dedicato a qualcuno, in realtà dedicato alla musica, ecco, esattamente. Conosciuto per le sue liriche incentrate sull'amore, sulla spiritualità, tutto cucciolone, Common. Proprio per questa cosa, oltretutto, ha cominciato una faida con Ice Cube, che parlava solo di sesso e violenza. Ognuno sceglie quello che deve scegliere, cioè. Io preferisco Common. Anch'io preferisco Common, sì. Aspetta, sì, forse ho detto di lato al micro, io preferisco Common. Volevo dire, io tipo Common. Io ti vedo. E dopo queste pillole di nozioni importanti su Common, passiamo al pezzo dopo e quindi passiamo al 2006, anno per anno, continuiamo questo viaggio di maggio, che fa anche rima Yao. Che giorno era di maggio? Era il 30 maggio. Siamo andati filo filo nella playlist, perché stava per uscire a giugno, attenzione. Eh sì, a pelo ci salvano i The Procassions. Siamo nel 2006, siamo a maggio, il disco è Five Sparrows for Two Cents e il pezzo è Simple Song e sentitevelo perché è bellissimo, bellissimo pezzo. Aspetta, mozzo del mixer. A dopo. Like a mantis, submerging the word like Atlantis to plant this. See, we feed it off the roots of David, and finally freed from enslavement. See, this is where the pavement meets. reach the path. The power principles of purity are unmasked and vast. Our direction is that of the outcast. Alas, in temptation like the 30-day fast. Redeemed from the past, renamed in the present. I sing to the king who came as a peasant. He's offering that present state of humility, the light of the world with the strength and the ability to transform. Norm the extraordinary, making profits out of prosecutors. If necessary, in rags to revolution. Poetry from pollution, filling the family man, problem to solution. And the solution is clear, the revolution is near. No more confusing people with fear. The constitution appears to make freedom a right. But you know it's only found in the sunlight. I say you know it's only found in the sun, right? I got one aim, one love, one fight. Come on. At a loss for words, I heard something in my mind sing da da da da da. Without a care in the world, I stand firm on the cloud singing da da da da da da. Waking up at the dawn, I had a song in my heart, it goes da da da da da. I found peace in the vision of love, and yo, it sounds like da da da da da da. A deliberate intention, a rush to our destruction. A self-hate, the face that needs no introduction. It's what we're fighting for, just what we settle for. These notes are right, I'm more than just lines behind a metaphor. Scripting with the purpose, the fire that's burning. Yearning to show us the light in times that's uncertain. The struggle so fragile, being reduced to gravel, then built back again. A breath of life refreshing the dead man again. A new man begins, a new champion. Claim the win for the team, well versed with the lessons of hurt. It's extreme insecurities we have already. And right on our sleeves like tabs of acid, name brands and badges, and birth control given through medicinal patches. Addiction is fashion, acceptable actions from sociable addicts living the sickly image in this modern day Rome. We murder our own, die by the cell phone, and yet we cannot connect that buying gemstones does not reflect or make a good home. Government judging the world by the way that we live, yet our parents are afraid of our kids. Teachers would rather suspend instead of listen to them, lost pursuing this American dream. My father giving me a song to sing to put my mind at ease. At a loss for words, I heard something in my mind sing la la la la la. Without a care in the world, I stand firm on the cloud singing la la la la la la. Waking up at the dawn, I had a song in my heart, it goes la la la la la. I found peace in the vision of love, and yo, it sounds like la la la la la la la. Bentornati, questi erano dei Procussions con Simple Song, un pezzo dal disco Five Sparrows for Two Cents. Non bisogna dire bentornati ogni fine pezzo. No, l'ho fatto per due volte di fila, non l'ho mai fatto, mi sento professionale a farlo. Del 2006. Allora, i The Procussions, per chi non li conosce, male, e comunque ve lo dico, sono un gruppo americano di Los Angeles molto importante, formato da nomi importanti quali Mr. Jamie Darius, su cui potremmo fare una puntata intera dato tutti i lavori che ha fatto, il rapper barra producer Stro Elliott e Resonant. Hanno registrato due album e un EP prima di sciogliersi quasi definitivamente nel 2008 e continuare da solisti, facendo una serie di lavori bellissimi solisti che prima o poi presenteremo. E poi si sono riformati nel 2012 per una nuova registrazione tramite Indiegogo, insomma, un album che è uscito poi nel 2013. E sono un gruppo che suona benissimo, che ha dei beat meravigliosi, dei suoni meravigliosi. Io quando non so cosa ascoltare ascolto loro di solito, quindi mi piacciono un sacco, ecco, questa è la mia opinione contento. Al riguardo, sì. andiamo avanti. Scusa, volevo farlo in radio. Allora, aspetta, ok, sì, allora adesso tocca a un caposaldo della hip hop culture of the world. Adesso tocca a KRS-One e Marley Marl. che hanno fatto un bel disco insieme ed era il 22 maggio del 2007 il giorno d'uscita. E adesso vi faremo sentire, aspetta, come si chiama? Lawrence Krishna Parker. Attenzione. Ciao. Qual è il nome di Marlon Williams, ok. Allora, Marlon Williams e Lawrence Krishna Parker. Adesso vi faremo sentire Hip Hop Lives. Vabbè, avete capito, questo è il pezzo. No, aspetta, che questa è una cosa da risolvere. Allora, la pronuncia su Google Traduttore. Cioè, vabbè, questa è Hip Hop Lives di Gares One e Marley Marr dell'album Hip Hop Lives. Un bel pezzo lento, godetevelo, bello. Vado. Andiamo. I come back every year, I get newer. I'm the dust on the moon, I'm the trash in the sewer. Let's go. I come back every year, I get brighter. If you thinking hip hop is alive, hold up your lighter. Let's go. I come back every year, I'm expanding. Talking to developers about the city we planning. Come on. I come back through any endeavor. This is hip hop, we gon' last forever. Hip means to know, it's a form of intelligence. To be hip is to be update and relevant. Hop is a form of movement. You can't just observe a hop. You gotta hop up and do it. Hip and hop is more than music. Hip is the knowledge. Hop is the movement. Hip and hop is intelligent movement or relevant movement. We selling the music. So write this down on your black books and journals. Hip, hop, culture is eternal. Run and tell all your friends. An ancient civilization has been born again. It's a fact. I come back every year. I'm the strongest. KRS, Marley Marl. Yep, we last the longest. Let's go. I come back 'cause I'm not in the physical. I create myself, man. I live in the spiritual. I come back through the cycles of life. If you've been here once, you gon' be here twice. So I tell you, I come back 'cause you must learn too. Hip hop culture is eternal. Hip hop. Her infinite power helping oppressed people. We are unique and unequal. Hip-hop. Holy integrated people having omnipresent power. The watchmen's in the tower of hip-hop. Hydrogen, iodine, phosphorus. Hydrogen, oxygen, phosphorus. That's called hip-hop. The response of cosmic consciousness to our condition as hip-hop. We gotta think about the children we bringing up. When hip and hop means intelligence springing up, we sing. In what? Sickness, hatred, ignorance, and poverty, or health, love, awareness, and wealth. Follow me. I come back every year. I get newer. I'm the dust on the moon. I'm the trash in the sewer. That's right. I come back every year. I get brighter. If you think hip hop is alive, hold up your lighter. Let's go. I come back every year. I'm expanding. Talking to developers about the city we planning. I come back through any endeavor. This hip hop, we gon' last forever. We will be here forever. We will still be here forever. Get what I'm saying? Forever. Marley, I come back every year. I get newer. That's that. I come back every year. I get newer. That's that. Ma come every sono day. Belli i pomeriggi in compagnia di questa bellissima musica, eh? A me piace un sacco. Everyday, bitch. Un sacco divertente. Aspetta. Allora, attacchiamo il nostro pollo. E parliamo un po' di questi artisti. Allora, KRS-One, che significa Knowledge Reigns Supreme Over Nearly Everybody. Ce l'ha studiata. Esatto. Che significa la conoscenza regna suprema sopra tipo chiunque, sopra ogni cosa. Una roba del genere. Non so cosa voglia dire. Cosa vuol dire? Siamo una pippa in inglese. Conosciuto anche come The Teacher. È un rapper, è un attivista ed è un writer. Attenzione. È stato inserito nella lista dei migliori MC di tutti i tempi, ovviamente. Cosa dire? Quando ho conosciuto Scott La Rock, che sicuramente dovreste conoscere, è nata la crew Boogie Down Production, che spero per voi conosciate. Nell'84 ha collaborato beh, sempre con Scottola Rock, collaborava con Scottola Rock e The Celebrity Trigger, il suo gruppo. E il suo primo disco, chiamato Criminal Mind, è uscito nel 1987 per la Boogie Down Production. Purtroppo, Scottola Rock è stato ucciso in uno scontro tra gang nel Queens. Accadevano ancora queste cose. E quindi la sua collaborazione termina lì. Cioè, è brutto da dire, però è stato così. Con Africa Bambata e Kool Herc e Grandmaster Flash ha fondato un'organizzazione chiamata The Temple of Hip Hop, che celebra e organizza concerti nel Bronx e cerca di proteggere la cultura e le radici dell'hip hop. Infatti avrete sentito che nel 2006, 2008, 2010, non ricordo. Insomma, un numero pari. Esatto, spero. Fu presentata all'ONU la dichiarazione di pace dell'hip hop, che è stata poi riconosciuta e fu firmata da tutti i più grandi nomi dell'hip hop americano, fra cui i fondatori Bambata, Kool Herc e Grandmaster Flash, e che è reso, cioè, quattro capistipiti della cultura. Marley Marley invece è un produttore, un beatmaker. Scusate, cominciò come produttore di musica elettronica, ma i dischi divennero sempre più pieni di campionamenti, cambiò le batterie, infatti divenne uno dei più grandi produttori, l'unico produttore della Juice Crew, che era nota anche per la rivalità con la Boogie Down Production. Infatti erano rivali, cioè poi hanno fatto un disco insieme. Perché hanno fatto un disco insieme? Questa è una storia divertente. Praticamente Keres One telefonò a Marley Marlowe e gli disse che sarebbe stato spettacolare una collaborazione del genere per l'hip hop, perché volevano mostrare che le rivalità all'interno della cultura hip hop non sono così serie. Quindi, cioè, bello quando la scena va oltre il piano personale, sempre bello. Parliamo di Keres One, cioè uno che è oltre proprio a prescindere, sì. Capito? Cioè, non vi dico i nomi che c'erano nella Juice Crew, perché fra loro c'era Big Daddy Kane, c'era Kool G Rap, Masta Ace, cioè, quindi, cioè, Marley Marlowe non è nato ieri, ha prodotto quanta gente tutto lui. Adesso andiamo al 2008. Passiamo al 2008, al 7 maggio 2008. Che cosa succede questo 7 maggio? Speriamo caldo, io continuo a sperarlo. Del 2008, Sadistik fa uscire un disco dal titolo The Balancing Act. E il pezzo che abbiamo scelto di passarvi è Memento Mori. Un disco dal suono molto cupo, molto Memento Mori, molto dice già il titolo della canzone, insomma. Sì, sì, Sadistik è famoso per questo. Sì, esatto. Tutto oggi è famoso per questo. Quindi intanto sentitevi questo pezzo, cambiamo un po' mood, ma vale la pena. Infatti, finalmente i pezzi erano tutti contenti. Oddio, contenti no, insomma, però suonavano contenti no, però suonavano molto, contenti, molto solari. Esatto. Questo no, però non vuol dire niente, no? Non mette in dubbio la sua capacità artistica. Quindi adesso, da buone sessioni notturne quali siamo, sì, passiamo un bel pezzo notturno. E ogni tanto ci sta. Aspetta, vado. Sì, andiamo. Ciao ragazzi! Aspetta che sta partendo, C'è l'intro un po' lungo. Parlo finché non si sente niente. Te puoi parlare quanto vuoi. Ok, chiudo, ciao. Another playwright dies again. I reach for great heights and play my violin on my vocal cords where the great whites hide within. Neglecting broken veins and the ventricles that break when I'm hiding what I feel in its excess olden face. I better fold that ace and find a past calm. Pride is flatlined and my pedestal's at stake. Reality's orphan kid, casualty, abortion, vic, journalist, a word, personality, contortionist, My claws scrape the clan and scratch and paint palms and hallways and traps in. I think of Pol Pot taking his final breath and the bullets that he lodged in David McDonald's chest. I swear to God that I felt the bullets too when a homicide suicide I sing the ocean blues. Confessions of a cloud that sound is so sincere when he always face the ground, rolling down the quotes and lyrics. I've got a ghost, but he never stays in touch. Another hole to dig in, another grave to love. Another fit that's gone, another day that sucks. Another dream is dead as the summer fades to dusk. Those are fucking blues in there, man. Have some fun with this one. Check it. I gotta find the time of day when I'm awakened now. I'm not afraid to migrate and hide away alone. Every single song I make's another piece of my peace of mind. If I fall in line, I swallow pride or choke. A rhyming coach, I'm running low on beer and weekend pools. Just to ink a song and sing along, right here to sing to you. I'm out of love and tired when I'm sounding uninspired. And I'm drinking to love you without a single reason to. With a what, to when I come from you. When I do all these things that the fuck up to come to. Not that a place, unto. Love and mistakes when I'm summoning something divine and I'm loving instead of just running away. Hey, way to look past this is gaze through look glasses, semantics, passions, practiced actions, and that's it when I catch wind in antics. This for you, Phoenix. Listen. Every single night I pray my letters form a kiss, and it blows through the wind until it rests upon her lips. A metamorphosis that the butterflies imagine in undecided fashion when weather storms emit. She settles scores with this, and I just sit enchanted as fireflies dance until a wish is granted. I listen frantic to melodies of heartbreak. It feels so temporary, but she's telling me it's always. I die in hell so my angel's not alone, and I swim inside her blood for a fatal drop of hope. Just to prove our engagement's a soluble and answer the chorus when the rain hits the solitude and breaks into molecules. That's her, another piece of me that feels but can't hurt. I stand firm in this apocalyptic breeze till I finally fall apart and then my confidence is breached. And I'm gone. And I'm gone. I'll find someone else to fucking lie to. Not me. It would have been 3 years today. But I'm gone. Can't you hold my hands and warm me? Stay with me until the horror is over. Passiamo anche musica strana, eh? Avete sentito il nostro sadistic che ci fa sentire cose che non sentiamo di solito. Però era una bomba. Era una bomba comunque, cioè per chi stava apprezzarlo era veramente una bomba. Il disco appunto è The Balancing Act, il vero nome di sadistic è Cody Foster, se vi interessa, e che è appunto americano anche lui, di Seattle, Washington. È stato descritto sotto la definizione uno che mostra le sue cicatrici con ogni canzone che scrive. Effettivamente io concordo pienamente con questa descrizione, perché è cicatrizzante sadistica. Effettivamente sì. Ed è stato strettamente associato al compianto artista hip hop Idea, si scrive Idea per chi lo volesse sapere. Ed è stato conosciuto perché ha uno stile unico e effettivamente caratterizzato da queste immagini oscure, da questi giochi di parole molto, molto densi e degli stili non tradizionali, non mainstream. Infatti avete sentito anche questo pezzo, aveva tipo sì, due pause alla metà del pezzo. Sì, il beat forse è troppo alto. Aveva due pause alla metà del pezzo, il beat scuro con diversi sample, molto riverberato. Non è il solito hip hop che siamo abituati a sentire, però è un hip hop interessante, sì, quindi era giusto passarlo. Se controllate anche tutte le copertine dei suoi dischi, sono una più oscura dell'altra. Sì, giù. è vero, cioè, dei disegni un sacco tristi, però... Sono spettacolo, capito? Sì, un sacco spirituali e spiriteschi e spiritati. Un sacco spirit, spirit, un sacco spirit. Allora, adesso torniamo, adesso torniamo in Italia, torniamo nella nostra calda Italia, sì. E tra l'altro passiamo qualcuno che abbiamo già fatto sentire, ma che vale la pena far risentire. Sì, infatti sì, era il 24 maggio del 2010, quando un gruppettino... Ino, piccolino, conosciuto forse ai più, chi lo sa... Ai più stretti. Sì, sì, un gruppo che si chiamava Cor Veleno, ha fatto uscire Buona Pace. Beh, basta. Come facevamo a non passarlo? Anche se li abbiamo già passati, se a maggio esce un disco di Cor Veleno si passa. Cioè. Per il buon primo, questo è altro. Sì. Adesso vi facciamo sentire Falso, noi ce ne stiamo buoni buoni e aspettiamo che e ascoltiamo con voi questo pezzo. Sì. Sto già all'opposto, prima voglio andare in giro e poi divento un mostro. Ed è questo posto che mi dà sti sbalzi. Prima fragole buone, dopo grossi cazzi. E non è mica detto che ne trai vantaggio a leccare sempre il culo del capovillaggio. Ho la via selvaggio e mi manca poco che finisco il viaggio ed è un viaggio a vuoto. O gioco con il pane e non penso al dopo, o muoio dalla fame o imparo a fare il cuoco. La mia difesta va in un altro modo e c'è molto meno spazio dei buchi di Francesca Lodo. Pagami il dazio perché è casa mia, quando sbatti la tua testa sulla batteria. Quando vedo che qua intorno c'è la carestia, mi metto in marcia, pronti, partenza, via. Wow. Cercano il mio culo per le carro, pensano che sanno quanto vado, pensano a cambiare più testardo, pensano che è vero invece fa. Gialle dalle stelle alle stalle mi parlano di musiche e di musiche non tollero. Oh, restano che devo farci la dignità di fare rap e presa a calci. Oh, restano che devo farci io e tu no, mi sei nipote a non chiamarmi zio. Tempo di capire, cambiare l'aria, sti simpaticoni patinati, Italia, Italia. Più ci vuole per il tè, ricordo, ma chi sono, nulla di buono fai saltare in aria. Fame di successo io la chiamo Spagna e tu mi fai cantare ma mancare l'aria. E che mi viene a dire di mentare Italia, se fino alla fine dire fare mafia. E se, se qui si fa la rivoluzione, c'è che va la mica ti spara finché fa il secchione. Se qui si fa la rivoluzione, c'è che va la mica ti spara, spara zampaglione. Cercano il mio culo per le carro, pensano che sanno quanto vado, pensano a cambiare più testardo, pensano che è vero invece fa. Una tigre o un giaguaro? Allora è stato un video ring. Io vi giuro che lascio la trasmissione perché la signorina qui accanto stava facendo il verso della tigre nel frattempo. Tigre sì, insomma, mi sembrava un cane bastonato. Del cane bastonato. Vabbè, ti fede. Faccio io, va bene. Allora eravamo in Buona Pace, un meraviglioso disco, serenissimo come sempre, dei Cor Veleno. No, scusate, esatto, ancora sono rimasta nel mood tigre. Che i Corveleno sono un gruppo, vabbè, ne abbiamo già parlato di Corveleno. Sono un gruppo, cioè, Corveleno. Sono un gruppo. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti, tanto ormai li conoscete, ve li passiamo sempre come il danno. Non capisco che cosa ci abbia da ridere così, in modo così esuberante. Il nostro Mars oggi è felice, okay, finalmente, nonostante allora, il tempo di merda che ci circonda. Adesso... Adesso non so se non riesco a capire se il beat è alto oppure no. Qua di dire di no, però mi sembra no, di sì. No, non si capisce bene, però l'importante è che ci sia un piccolo Brown che ci allora, un piccolo Apollo che ci un piccolo pollo. Adesso siamo nel 2012, sì, a maggio sempre. Ci stiamo avvicinando a noi sempre di più. Però non so che giorno era, ragazzi, cioè, ho cercato la data d'uscita di sto disco, non l'ho trovata. Quindi rimaniamo che siamo a maggio del 2012. Mm-hmm. Abbiamo un disco uscito da tre persone che si sono messe insieme soltanto per far uscire questo disco. Sono Zampa, Capstan e Non Dire Chaz, che hanno deciso di far uscire un disco chiamato I Giorni del Condor. Un disco che parte proprio, cioè, da loro tre, perché Non Dire Chaz ha prodotto interamente il disco e Zampa e Capstan si sono occupati dei testi. Ci sono diverse collaborazioni in questo disco, cioè abbiamo Jack the Smoker, Turbo Gigi, E Green, Flesha, Son Budo, Jim, Jap, quasi tutti veronesi, wow, non ci avevo fatto caso. Abbiamo deciso di farvi sentire il pezzo insieme a Bassi Maestro e DJ sì. Steve, oltretutto title track del disco, quindi vi facciamo sentire I Giorni del Condor, tratto da I Giorni del Condor. Un attimo che lo trovo nella playlist, eccolo qua. La nostra organizzazione come sempre soddisfa. È bellissimo. Di Zampa abbiamo già parlato. Di Capstan vi dico solo che è un MC e un DJ classe 86. Ha fatto uscire due dischi solisti. Ha partecipato a diversi raccolte, mixtape, sempre della zona VA. Invece Non Dire Chaz, ho trovato soltanto delle sue affermazioni. Quindi Non Dire Chaz di se stesso, vi dico cosa, ve lo leggo, vi dico esattamente cosa dice di se stesso. Ho fatto dei dischi, 5 volumi di strumentali, ho fatto un disco vero con Astio, un lavoro a quattro mani. Ho fatto I Giorni del Condor, dove ho cercato di essere il più libero possibile. Ho collaborato qua e là, ma fondamentalmente ho mantenuto quello che ho sempre voluto, la mia musica come mia e di nessun altro. Basta. Yeah. Non vi so dire altro su Non Dire Chaz, quindi faccio sentire il pezzo e dopo andiamo avanti, ok? Non sento ok? Ok. Ok, okay, grazie. Ok. Quindi alzo il volume della musica, metto play. I Giorni del Condor, ragazzi. E muto i microfoni. Chi li dimentica? Io non ne ho visti Condor, sai? Qui a Los Angeles. Ogni nazione aveva il proprio imperatore, un re da combattere con la rivoluzione. Oggi invece che la democrazia ha fallito, sono sempre schiavo, ma non so la faccia del mio nemico. Cospiratori, banchieri, raccomandati, nuovi ricchi, avvocati, illuminati. Ognuno ha il suo pezzo di torta, e dietro la porta, che apro c'è sempre un'altra porta. È un ingranaggio scomposto, e più metto a fuoco l'obiettivo, più mi pare nascosto. Sarà lo spread, il re in quel campionato, ma il mio vicino era trema narcotizzato. Ed i giornali parla d'altro, come se il futuro fosse frutto di un abbaglio. Resto un bersaglio, mentre il tempo mi uccide, e qualcheduno per noi ora decide. Trying to keep the army. Every single day in my life is running through my mind. History's told foul. Secret society trying to keep the army. 5 out of 100 know the truth. Believe that. It's like I'm fighting for freedom. Sono i giorni del Condor, mille identità cancellate come foto. Ricordo, io non mi ricordo, ma mi è stato detto che mi hanno cresciuto dentro un altro posto, in un altro corpo. Sono i giorni del mondo che collassa su se stesso. La vita che viviamo non è il nostro possesso. Controllati, decifrati, digitati, contagiati, disagiati, decimati. Hanno i rapporti segreti nei loro archivi. Sanno cosa vedi, dove scrivi e come vivi. Sanno governarti come Dio comanda. Perché in Italia quando Dio comanda oscurano ogni mia domanda. E siamo in fuga ma non sappiamo da dove. Noi con altre 1.000 milioni di persone. Cerco un posto al sole ma rimango all'ombra. È solo un altro condor che passa su un'altra tomba. Every single day in my life, tears running through my mind. History's told foul. Secret society trying to keep down. 5 out of 100 know the truth. Believe that. It's like I'm fighting for freedom. Sono i giorni del condor, ora che mi crolla addosso quello che ho attorno. Io non posso scendere a patti, se ognuno dà la sua versione dei fatti. Bisogna farsi scaltri, per noi la diffidenza è norma prima. Ed è meglio che anche tu non ci dorma in cima. Potresti ritrovarti morto, tradito da un amico se qualcosa va storto. Niente di personale, quando sei messo male. Chi ne può ricavare può fiutare l'affare. Tra mare nell'ombra, ogni cosa che ti circonda te la fan vedere sotto un'altra forma. L'erba cattiva non si estingue, alla radice che contraddistingue le male lingue. E mentre cerco di scoprire quelle cose che non ti diranno, mi chiedo quando questi giorni finiranno. Every single day in my life, tears running through my mind. History's told foul. Secret society trying to keep down. 5 out of 100 know the truth. Believe that. It's like I'm fighting for freedom. Tigre, però senti, almeno io ero in una... intonato, ero esatto. In mood, sì. Brava, brava, grazie, brava. Grazie. Allora, adesso andiamo avanti perché tanto ho già detto quello che dovevo dire su Cappa. Sì, è vero, abbiamo già adesso detto abbiamo un altro bel pezzo. Adesso abbiamo un altro bel pezzo, anche sì, perché mi rompevo parlare. Allora, siamo nel 2012. Aia. Aia cosa, non t'ho toccato. Mi è pompato. Ho urlato, scusate. Ogni tanto mi scappa la voce. È che non riesco a controllare il mio volume, ragazzi. Non riesco a capire. Allora, vatti a sedere là. Siedo a 10 metri dal microfono. In posizione nell'angolo della stanza. Vai, il pezzo è Oh Hail No. L'artista è LP. Sapete chi è LP, vero? Cioè, i Run the Jewels li conoscete tutti. Sapete chi è LP. Il disco è Cancer for Cure. E il pezzo è featuring Mr. Motherfucking Esquire and Danny Brown. E intanto continuiamo su questa scia, quindi intanto sentiamo questo pezzo pazzesco, pieno di meravigliose schitarrate. No, schitarrate no, questo no, no. Il no. Pezzo questo qui no. È il disco Sì, però testa. Prima di partire, aspetta, prima di partire prima di partire per un lungo viaggio. Ricordiamo ai nostri cari telespettatori da dove ascoltarci. Allora, mi hanno coperto fammi la scritta vendo. Santa Peppa. Aspetta. Santa Peppa. Allora, un attimo. Allora, ci potete ascoltare dal sito, se non ce lo state già facendo, che sapete tutti è wombat.noblogs.org. E potete scriverci alla nostra indirizzo posta mail, che è postawombat@insiberia.net. Scriveteci tante belle cose. Indirizzo posta mail? Indirizzo posta mail. Una fusione di parole. Wow. Yeah. Oppure ci scrivete sulla nostra pagina Facebook di Sessioni Notturne, che continua ad avere un sacco di mi piace, un sacco di cose belle. Sì? Sì, si sta aggiornando, sta avendo un sacco di nuovi ascoltatori. Ci hanno anche consigliato e chiesto di passare un artista che puta caso ha fatto uscire un disco a maggio, e quindi a breve sarà nelle vostre orecchie, ma lo abbiamo diremo avuto dopo. Una richiesta. Intanto, cioè, una sola richiesta, voi che cosa fate? Ci avete ascoltato magari in 20 e ci arriva una sola richiesta. Io voglio fare una puntata con 14 richieste, così siamo sistemati nella puntata. Intanto ascoltatevi LP e non Mars, per favore. Oh, hey, no, LP, 2012. Vuol dire che non ho ragione. Sì, hai ragione. Io non vado hai in play. Ragione, figurati, hai sempre ragione. Poi ti stacco il microfono. Vai, vai. Ciao. Thank you. honest when you talk, I just cut myself. On some ultimate fuck you, go fuck yourself. Like that was so heartfelt, you really touched yourself. I love the part where you cry, I like nothing else. For me, every breath is a criminal. Critical breach, bloody gums beat minimalissimo. Make you spin like you're sniffing a god particle. The purple cloak of the dusk, an odd article. Originated decay, Caterwauler brand. Dawn tread arising, hollow man vibe gliding. Jumping through the tides of slime smiling. Could be the high, it's just mind control dying. Fucking throw me on the problem pile. I'm a grim for the garbage, stained parchment. Peeking out of my blinds in the apartment. Waiting for that heart, hear that archangel calling. Pocket full of air, plus nothing to wear. I've been told I was put here to fail. Never ask me to hail. Never ask me to hail. Never ask me to hail. I'm shaved hair in an electric chair. With the grin going out with the flare. Never ask me to hail. Never ask me to hail. I never asked you to hail. I turn the gold to your rhyme. Sex or horror is deplorable. I need four at a time. Maybe I'm lost in the grind. Haunted by all I desire. Possibly cause to be normal. Bonds and then tossed in the fire. Forces a corporate design. Cause it don't move in a line. Meant to be something other than this, but I think I forgot. Shyamalan twist and apply. Camelot swerve on the ride. No, I won't piss in your pride. Like put that bishop in pie. Visceral villain is vindicated by venomous vibes. Vicious concealing my mental illness by willing to smile. Endless intentions to climb. A villain piss in the sky. Brooklyn is up in this motherfucker. So suck on our cock. Pocket full of air, plus nothing to wear. I've been told I was put here to fail. Never ask me to hail. Never ask me to hail. Never ask me to hail. Shaved hair in an electric chair. With the grin going out with the flare. Never ask me to hail. Never ask me to hail. Never ask me to hail. Check. The max boom existing, these rappers nutrition. I'm shitting out they written while I'm pissing on a freestyle. My patterns are orgasm. Your floor checkerboard, my left shirt is Lecter. Your tech shirt is pocket protector. With techniques, I tech up your sector. Inspector, gadget with the ratchet. Bitch won the beauty pageant, bought her ass a rabbit. But not a furry bunny, bitch, I'm all about these monies. Tummy empty and them days wasn't sunny. So I had to sell crack cause I ain't wanna be bummy. Granny gave me a couple dollars while she played gin and rummy. Off that mob deep shit, had me saying Donnie. Done, this nigga here is not a dummy. Look at all he has done, you niggas spelling crummy. Gummy bear, you running where? Just like a fat bitch running 100 stairs. I ain't Ric Flair, with thick hair, yelling out woo, getting hit in a director's chair. Questo era LP o Hell No, Fear Mr. Motherfucking eccetera eccetera. Mr. Motherfucking X-Quire. X-Quire. Chiarissimo, no? La voce mi ricordava quella di Il Bill, ci tenevo. Aspetta, che serve il beat di sottofondo, se no parlo male. Se no parlo, parlo male, credo. Aspetta. Un attimo, metto un play. Ah, eccolo. Mi sento nudo. Molto male. Mi sentivo nudo. Allora, LP, due pillole al volo. Lyrical Punisher. A prezzo sì, perché LP è lirico, mm-hmm. sarà tipo El Producto. Io pensavo mm-hmm. che era in realtà era l'abbreviazione di El Producto, perché Lyrical Punisher, LP non ci trovo una cippa. Vabbè, ha trovato lui i suoi collegamenti. Beatmaker, no. Polistrumentista, rapper e produttore discografico statunitense, le ha fatte tutte. Uno tra i più importanti nella scena underground americana. Uno dei migliori beatmaker, secondo me, secondo qualcuno che ha scritto delle robe su internet. So, vedete, il mondo è molto, molto bello perché è molto vario. Le opinioni, sì. Sicuramente lo si riconosce per l'elettronica che utilizza all'interno dei beat. E se non lo sapeste, Lingua Ferita di Lord Bean, che vi passeremo. Quasi tutti i beat di quel disco, se non tutti, sono presi dalle strumenti. Ma non mi ricordo, sai, dopo controllare. Sono tutti presi non da c'era quel scritto disco sul vinile. Sì, sono tutti presi da diversi dischi strumentali di LP, perché LP ha fatto 5 beat tape, ha fatto uscire finora. Tutti i beat Lord di quel Bean disco. Lord Bean ha deciso di usufruirne, ha fatto un lavoro meraviglioso. Infatti, Lingua Ferita ancora non abbiamo passato. È vero, è lo vero. Passeremo. Non è uscito a maggio, a quanto pare. Già. LP conosciuto anche per chi ha fondato i Company Flow con DJ Mr. Len e Big Jazz. Company Flow che sicuramente conoscerete. Il disco Funk Crusher Plus rimane uno dei migliori che ho mai sentito anch'io fino ad oggi. Invece nel 2013 ha fondato insieme a Killer Mike Rand Jewels, quindi in un modo o nell'altro conoscete il P. Poi per quale motivo è indifferente, l'importante è conoscerlo. È un po' come dire: hai mai conosci la carbonara? L'hai mai mangiata? Sì, ma sei sicuro? L'hai mangiata dopo? Il paragone fra il P e la carbonara mi sembra l'importante è che tu la conosci, la conosca, la conosci. Facciamo un meraviglioso salto nel 2013 e torniamo nella nostra nella nostra penisola italiana. Ci metto un po' a pensare penisola sì, come parola. Anche perché lui non è del tutto di qui. Oddio, no. Dov'è il pezzo? No! Andiamo avanti. No, aspetta. No, vabbè, no, cioè, no, io sono sicuro di aver... No, aspetta, me l'ho messo, vai, io non scherzi, Dov'è? Dov'è? No, non devo controllare. Sono sicuro di averlo. Io sono 14. Ah, eccolo qua, vedi che ci sta. No, mi stavo spaventando, dove no, sta? Abbiamo avuto un momento di problemi tecnici, vi chiediamo scusa, per cui che Marzio ci tiene particolarmente a comunicare in radio tutti i suoi... Sì, io non voglio nascondere nulla. No, non nascondo niente. No, mio Dio, oddio, no, dov'è? No, ma comunque non c'è, aspetta. No, basta che metterlo, cioè, lì. Cioè. Ah, ecco perché non c'è il formato. Ah, non funge. No, vabbè, non mi interessa, lo voglio sentire. Allora, facciamo così. Troviamo il modo di farvelo sentire lo stesso perché è un pezzo importante. Esatto. Cioè, è particolarmente importante, è uno su cui abbiamo puntato particolarmente in realtà. Eccolo qua. Allora aspetta. Tanto vi tocca. Si sente? Aspetta. No. Non ti preoccupare. Sì. Okay, è partito. Fammi dire che cos'è, che stiamo creando un sacco di suspense. Aspetta, rullo di tamburi. Che rullo di tamburi? Va, parla, me ne vado. Stiamo parlando di questo, colui che ha scombussolato i nostri cuori è stato proprio E-Green, che esce nel 2013 a maggio con Il cuore e la fame, disco di grande successo e di grandi pezzi, e per questo noi abbiamo deciso di farvi sentire proprio l'intro, che è un'intro meravigliosa e che vale tutto il disco. Intro fra parentesi è davvero meglio che Scendi, si intitola il pezzo. Questo è E-Green, quindi ve lo faremo sentire in questo modo strano, ma importante è che lo sentiate. E-Green vostro, yes. Un attimo. È successo qualcosa. Non ho calcolato i volumi preciso. Ma oh. Sarà una puntata molto divertente. Allora, aspetta. È bello che viviate con noi i nostri problemi tecnici. È per questo che siamo così legati. È per questo che siamo così. Ok, allora vado. Parto basso così pesante. E dai, okay? È forza. Ok. So I can return home, nigga, choices that determine my future under the sky. Jackson rapper, pay dues before they run. Blast it, this kid got his crap nasty. I'm fed up with the bull. I come with skills and I leave with your motherfucking respect. Io non mi scordo che sta merda è più grande di me, soldato. Da quando scamo un campione già utilizzato, quando vedo un ragazzino che gioca a farla arrivato, quando mi riascolto uno di quei dischi che mi ha cambiato. Vera storia di un amore incondizionato, vera storia di un amore incontaminato, vera storia di un ragazzo col suo cuore in mano. Fame negli occhi della tigre, frate, io ti sbrano. Ma io ho avuto il talento per essere famoso, tanto allenamento e un rispetto religioso. Quello che non avete, quello in cui non credete, se non lo sapevate adesso lo sapete. Sta merda è nasca e rappa sulle scale del suo palazzone. Rakim col microfono in fiamme nel capannone. Lord Tariq e Peter Ganz allo stadio. E non mi viene il déjà vu quando sento Shakira in radio. Mathman nel 9-4 che se la rappa in metro. Tenz e Fame a Saratoga con tutta la gente dietro. Neffa su quel rooftop con tutta la pallotta. Nicole in bianco e nero su quel ring. Merda che scotta. Io vi riporto allo stereo e le cassette col calendario. calendario che segna 2037. Nient'altro che il portatore sano di un messaggio, un'attitudine che da una decade il mio solo viaggio. Rap italiano non è quello che pensavi, sotto i riflettori arrivano i temporali. Chi sono io per dirlo, chi siete voi per farlo? Scarsi di merda, io vi aspetto sopra un palco. Uno alla volta tutti insieme, frega un cazzo. Rock, dammi il microfono che questi io li ammazzo. Ma quale rosicogno, solo in bocca una mitraglia. Non vedi, coglione, sto col meglio del meglio in Italia. Io non disto per necessità, è ora che la gente capisca che c'è qualcosa che non va. Fanculo pure a sti puristi, tutti sul piede di guerra. È ora che torniamo tutti quanti coi piedi per terra. Sempre lo stesso balubriaco, we fly high. Gifantini mi conosci, just like watch us never die. Non conta i dischi che vendi, le tippe che stendi, ma solo le mazzate che prendi. E mo' meglio che sei. Return one thing in choices that determine my future under the sky. Jackson rap must pay dues before they drop. Blasted, this kid got his crab mask, man, blasted. I'm fed up with the bull. I come with skills and I leave with your motherfucking respect. Ok, ora capito. Ce l'abbiamo fatta, ne è valsa la pena, ne è valsa la pena. È un pezzone, un pezzone incredibile. È l'intro del disco, ma è comunque un pezzone. Cioè... Il nostro Nicolas, sempre meraviglioso, Turbo Gigi. Turbo Gigi. Turbo Gigi. Ok. Ok, ok. Di Turbo Gigi ne abbiamo già parlato. Sì, abbiamo già parlato lungamente, non stiamo a ripetervi tante cose, tanto lo conoscete. Diciamo solo che il disco è uscito il 10 maggio del 2013 e che è pubblicato da Unlimited Struggle. Poi vabbè, i dissidi sono stati con Unlimited Struggle, sono litigato, un fattaggio, non mi interessa. Noi ci interessa solo la buona musica, andiamo avanti di corsa visto tutti i vari problemi che abbiamo avuto. E un problema abbiamo avuto però vale per 10 per quanto mi riguarda. E adesso passiamo a un gruppo incredibile che mi piace un sacco. Non delude mai. Loro siamo nel 2014, quindi viaggiamo di anno in anno. No, aspetta, di anche io scrivo, cioè ho detto giorno e mese, devi dire anche giorno. Va bene, siamo il 6 maggio del 2014. Che cosa succede? Esce un disco che si intitola 12 Step, ovvero 12 Step Program, perché torniamo dall'altra parte dell'oceano. Il pezzo si chiama Pictures on My Wall ed ha un sample meraviglioso. E loro sono i People Under the Stairs. La gente e sotto le scale. Adesso passiamo a tutto un altro mood e quindi vi rinfreschiamo le orecchie, nel senso che prima bruciavano e adesso si rinfrescano con i People Under... Non bruciavano nel senso che non bruciavano nel senso che mi hanno fatto male, wow, perché ho sparato la musica a palla. Ecco, in quel senso lì. People Under the Stairs, tutte... Sì, che cosa ho detto? People Under the Stairs, tutti i vostri. Vado. Pictures on My Wall, 2014. Darling, I'm still blue. 'Cause nothing, oh nothing, takes the place of you. Showing them eyes, driving me insane. Showing them eyes, driving me insane. The combination made my eyes bleed. Darling, I'm still blue. 'Cause nothing, oh nothing, takes the place of you. I'm Romeo Paddock, still scoping out a Juliet. On my screen backlit, beautiful silhouette, goddamn. Make me wanna buy a dozen roses like Sophie. She did a dozen poses in a Dilla Donuts tank top. Honey at the bus stop, clothes get skimpy when the city gets mad. Hot OG breaking 4G, just hit and refresh. She with the BFF at the beach having a sesh. Hashtag bikini bottom, got me feeling Squidward. Grumpy old boss, kinda cross with Dr. Hibbert. 'Cause I sweater and I'm bootleg, but it's all in good fun. Dumb shit like thumbs up, OMG, you at Cinnabon. I don't really care, it's calories for her booty. I never meet these girls, they're just internet cuties. But I still like them all, young and old, tall and small. I put the pictures on my wall. It's been a minute since you put up a picture. I got them everywhere, still I wanna get with ya. With your mani and petty, drawstring spaghetti. Not like a rapper, but I wanna bust like confetti. Now I'm just playing. I know you heard the saying, love at first sight. Just picture you and Mike, that's 10 million likes. Your smile is flight. Who's that dude with the comments? I'm trying to fight, and I ain't even met ya. Girl, I'll wet ya, the super soaker lover. Baby, I'll get ya. I'll walk down the pier, you can be my beach. Singing outside your window, inside I sneak. Your friends, they be bugging, like who that dude bugging? You be like Charlie Wilson, that nigga be humming. Lady, you are something, I wanna have a ball. Until then, I keep your picture on my in your 9 o'clock hours. You got DJ Bluefoot for the affair. Going underwater, but I won't be coming up for air, y'all. I got a few requests for you. I got some beautiful dedications here. We got Natalie to Matthew, Lily to Sam, Joe to Manny Mac, Mac to Van, and Tank to Pow Pow. Yes, we gotta always remember that you can't miss what you can't measure. All right, now, everybody keep it funky out there. On the one. Yeah, gonna get out one of the stairs, right? To get into this little funky groove right here on the one. Keep it on the one. Baby, baby. Love it. Baby, baby. Esatto, eccoci qua. Aspetta. Io li adoro anche le loro idee. Erano i People Under the Stairs con Pictures on My Wall dal 12 Step Program. 12 Step, allora, oggi l'inglese l'hai imparato? Yes. Sembra che hai studiato ieri. Mi sono allenata, sì. Questo gruppo ha una storia molto divertente, molto interessante. Hanno composto finora 7 album dal 97, quando hanno cominciato a produrre di brutto. Sono, loro due sono This One e Double Key. Non so se si dice This o This One, no, però non è scritto This, è scritto This One. E Double Key e sono sempre statunitensi di Los Angeles. Hanno questa storia molto divertente del fatto che loro in realtà sono nati con l'obiettivo di fare delle strumentali, soltanto che poi nel tempo si sono trovati in disaccordo con chi metteva la lirica davanti all'accompagnamento, no? Ai beat di sottofondo, e quindi hanno deciso di prendere in mano la situazione e cominciare loro stessi a rappare sopra i loro beat. È bellissimo. È una cosa molto carina. Non mi fido del rapper, esatto. Non comincio a rappare io, così non ho bisogno di altri rapper. No, invece secondo me è molto interessante perché si sente quando uno li ascolta, si sente che loro danno molto valore all'accompagnamento, ai beat, ai sample. Infatti c'avevano ragione, però è divertente. C'avevano ragione, cioè, pensare a loro che dicono: ma questi cazzo di rapper, chi ci credo di essere? Ora poi io, perché io la mia musica ci do valore, che è divertente, che anche c'è una cosa seria, è divertente. Infatti è molto divertente, sono un duo molto divertente e spaccano. Questo disco, che è The 12 Step Program, è tutto, suona veramente tutto orecchiabile, non dà mai noia, è tutto molto bello, molto... Ma in realtà sono tutti belli, anche l'ultimo che è uscito quest'anno, è uscito un paio di mesi fa, se non sbaglio, il disco nuovo, è figo. E un'altra pillolina divertente su loro due, si odiavano, perché uno stava in un gruppo, l'altro stava in una crew, di due scuole diverse. E praticamente quando, cioè, si odiavano soltanto per sentito dire, perché non si erano mai incontrati, capito? Quindi visto che girano le voci nelle crew, nelle cricche, si odiavano. Poi un giorno si sono incontrati in un negozio di musica mentre cercavano roba da campionare, Siamo messi in macchina a sentire i beat l'uno e l'altro. Ha detto: ah, bravo! Cazzo, questo spacca. E siamo messi insieme. E si sono messi insieme e hanno formato un duo meraviglioso. E storia! Lasciamo il 2014 e andiamo al 2015 con la richiesta che ci è stata fatta. Eccola. Devi qui. Dire la data. Ti prego. Il 5-5-15. Oh. Grazie. Oh, mi sento di dire. Il 5 maggio 2015, è vero. Grazie. Abbiamo un artista che fa veramente paura, cioè è veramente impressionante quello che riesce a fare. E è poco da far sentire un pezzo solo suo, perché veramente andrebbe fatto sentire tutto per sentire tutte le varie differenze, ma cercate di carpirle anche soltanto da questo primo pezzo di questo disco uscito a maggio. Aspetta che... ecco, vedi, non dicevo gli artisti. Stiamo parlando di Odyssey. Il pezzo si intitola That's Love e il disco si intitola The Good Fight. The Good Fight. Ok, allora metto il disco The Good Fight. The Good Fight. Allora, parlo andiamo in naso. In naso. Andiamo con That's Love, poi facciamo una chiacchiera, poi boh, vediamo. Poi magari, una birra. Magari ci esplode il computer. Told me the truth even if it really hurt, cause you knew what I was worth. That's love. When you let me borrow money that you didn't really have, cause you knew what I was worth. That's love. When I was at my worst, you would tell me I would blow when I thought that I would burst. That's love. You taught me how to help others, and through that discovered how to put myself first. And here we are again, just confronting fears. Whether pain or gain is a bunch of tears. Blood, sweats, and tears probably disappear when smoke starts to clear. They resistance near. Pay attention to the folks who are fan of the flames. They're the ones who matter most in the gravity game. When stakes weigh you down and they stay around to pick up pieces and you off the ground. That's love. That I seldom ever took, but your hand never shook. That's love. Both knowing you were right, never shook a lever right, just gave me that look. That's love. When I had to learn the hard way and you would let me fall, but never did it out of spite. That's love. You told me never burn a bridge if you build it and you need it, whether river or brook. And here we are again and across the path. Darwin's our friendship strongest last, but our strength lies in our first thoughts to laugh at the things that bring most hurt hearts to clash. Fought past the bowl, beef bouts and bros, passing pettiness, blame games and all. Had a few deals, time off to chill, but knowing what you mean, space means you feel with love. Tell ourselves that we don't really need it anymore. As if $1 million or the bottom of a bottle or a car, I never cheated it before. So you started with the I don't need it, all I need is money. You can give it to me, but you never get it from me. Yeah, you refused to play, but you were still in the game. Like it or not, let me explain. Now see, there's a tough kind, a too much kind, a not enough kind, a rather rush kind, and the abrupt kind, a go nuts kind, a hold up, maybe we should take a slow kind, or when you know kind. It started off as friends, but then over time began to show kind. And if we love each other, we can't stay together. We'll do worse, the better gotta go kind, and that's love. Eccoci, tornati. Bellissimo pezzo, mette un sacco di felicità, un sacco di buon umore. Questo era Odyssey, il pezzo era That's Love dal disco The Good Fight. Vuoi fare due chiacchiere te su Odyssey? Sì. Dai. Era un triste giorno d'inverno. Era maggio. Trascorrevo giorni felici con i miei amici. Ho fatto anche la rima. Non mangiavamo panini con le alici. No, allora, Amir Mohammed El Khalifa, conosciuto anche come Odyssey. Che bel nome. È un rapper, un producer, componente del trio Diamond District. E questo dovrebbe dire abbastanza. Aspetta, no, scherzo, prendo il proprio il telefono. Ma in realtà non c'ho tanto da dire, lo sai, mi sono No, non c'è, cioè, in realtà è una storia lunghissima di produzioni di dischi meravigliosi, esatto, però intanto cioè, ve li allora, passeremo. Tra mixtape, dischi e album ha fatto uscire 25 dischi. Esatto, cioè, quindi... Senza contare singoli e featuring come MC e come producer. L'unica cosa che posso dire è che lui in un'intervista disse di essere stato influenzato molto dai primi MC della East Coast, come Eric B e Rakim, della Soul e la Tribe Called Quest, perché non parlavano di droghe, non parlavano di omicidi e quindi apprezzava di più i loro testi. Vedi, oggi giornata... Ma perché, sì, è una giornata felice oggi. That's molto... Cioè, that's fuori love. Il tempo è una merda, vero? Tarara, tarara. Adesso... Andiamo al nostro penultimo pezzo, sì. 18 maggio 2015, scendiamo nell'oscurità, scendiamo nell'oscuro, eliminiamo proprio il sole di oggi. Abbiamo Francesco Paura. Fai almeno... Paura. No, sì. Ok, vabbè, scherzo. Abbiamo Francesco Paura, col suo disco uscito il 18 maggio del 2015, ultimo disco solista, nonché ultimo e basta, perché si è ritirato l'anno scorso, se non sbaglio. Ha proclamato di essersi ritirato dalla scena hip hop. Quindi parliamo di Darkswing. Vi facciamo sentire Overdrive con Eason. Un bel pezzo, delle atmosfere abbastanza cupe. Sì. In realtà anche... con sonorità più verse all'elettronica che all'hip hop, però a me piace questo verso. Quindi vado in play e ciao. Lascio la tensione sotto le lenzuola, forse mi serve ancora una mezz'ora. Non funziona mai questo ascensore, scendo fino in fondo nel palazzo, accendo il mio motore. Parto leggero su questo stradone, mentre spengo un altro mozzicone. Da un balcone una finestra accesa, è solo quella di un motel ad ore. Tra queste palazzine l'eco dei rintocchi di quel campanile, vorrei solo scomparire. Mi resta questo vento in faccia, oltre questo nervosismo nelle braccia. Non piango come Franco Califano, e nonostante non ho niente in mano, penso al futuro, un progetto, un piano, le verità che noi non accettiamo. I lampioni mi ricordano chi sono, un ragazzo affezionato a questo suono. Pochi soldi, re del sottosuolo, sotto sotto un buono, so il mio ruolo. Di quelli che per poca sicurezza hanno l'atteggiamento del grand'uomo e vanno avanti con quell'amarezza di chi riceve raramente un dono. Natascia cura un altro camionista, cambio strada qui si spara a vista. Togli il casco, sei integrale, sul lungomare scoppia un'altra rissa. Brilla l'insegna dei cornetti caldi, perché è presto, perché è troppo tardi. I miei fari vanno negli sguardi, riflettenti dei bastardi. Non conta niente più. Sirene in lontananza, un'auto corre dietro un'ambulanza. Angelina scava in un bidone, Salvatore lascia il cartellino della vigilanza. Rallento, seguo questa rotatoria, ho troppi vuoti nella mia memoria, mentre stringo la fotografia di chi ci ha abbandonato in malattia. Non cambio corsia, so cosa mi aspetta alla fine di questa nuova galleria, ma non capisco più quest'ansia e certe volte perdo tutta la speranza. Magari è vero che sono sbagliato, che questo mondo mi ha già rifiutato, ma sorrido per il risultato delle esperienze che mi hanno cambiato. I pesci vendoli vanno al mercato, ora quando i netturbini ancora non hanno staccato. Le volte che mi sento bistrattato e non abbiamo bisticciato, meglio se torno nel mio nascondiglio, magari il sonno porterà consiglio. Ho una donna che mi sta aspettando, nei suoi occhi vedo già mio figlio. Di niente, ok, beh, parlo, non ti preoccupare, tranquillo. Metto il beat. Ok. Sì. Siamo tornati a sessioni notturne. Questo era Francesco Paura con Overdrive. Adesso vi parliamo di Paura, pseudonimo di Francesco Curci, classe 76. È un rapper italiano, yeah. Yeah. Ok, vabbè, a parte gli scherzi. Allora, famoso per essere stato un membro dei 13 Bastardi. Membro dei Video Mind, lo sapete già. Ha cominciato nel 91 come writer. Nel 93 ha conosciuto Callister, con la quale ha formato l'Ordine del Pariamento. Dopo tante jam, dopo tanti pezzi freestyle, nel 95 l'Ordine del Pariamento si fonde con i GPS e i Quinto Elemento, sempre gruppi della scena napoletana, e formano i 3G Bastardi. Lui da solista ha fatto uscire 3 dischi, Octopus il primo, che contava tante belle partecipazioni, c'era anche Graf nel disco, Slow Food, e questo è l'ultimo, Dark Swing, che contava tanti featuring come Chiave, i Green, Clementino, niente da dire. Basta. Sì, e questo era Paura, e adesso, compagni Rappusi, siamo arrivati alla fine di questa puntata e passiamo all'ultimo pezzo, che finiamo veramente veramente in bellezza, perché il prossimo pezzo è molto molto bello. E ve ne parliamo subito, perché poi chiudiamo la puntata. Esatto. Allora, abbiamo il 20 maggio del 2016. Sì. Quindi oggi chiudiamo col 2016. Avok e Alchemist hanno deciso di far uscire un disco che si chiama The Silent Partner. Avok lo conoscete perché è stato uno dei due dei Mobb Deep, quindi Mobb Deep li conoscete tutti, insieme Siamo a Prodigy, che sì, è venuto a mancare qualche anno fa. Quando è successo Prodigy? Non mi ricordo, è stato lo stesso anno di Sean Price o qualche anno dopo? No, non mi ricordo proprio. Comunque non c'è più, ci ha lasciati. Esatto, invece Alchemist, Alchemist, cioè, lo conoscete, è iniziato da giovane insieme a Evidence a rappare, erano amici d'infanzia. Ha anche prodotto alcune tracce per i Cypress Hill, quindi, sì, insomma. Perché la parte divertente, ecco, è proprio questa, guarda, praticamente DJ Mags, il DJ dei Cypress Hill, gli ha insegnato a usare i sampler e la tavola mix, capito? Gli ha fatto da maestro. L'ha preso sotto la sua ala protettrice, ha fatto tu, vieni con me. E poi l'ha premiato facendogli produrre alcuni pezzi per i Cypress. E quindi, e poi ha cominciato a produrre pezzi di Dilated, perché Evidence lo conosceva da piccolo. Poi vabbè, ha cominciato a fare roba, dischi, pezzi, robe, cose. E ha fatto sto disco con Avo che è veramente bello. Sentitevelo tutto, noi vi passiamo una traccia che è Just Be Me. Scusatemi veramente. E appunto con Avok. E vi lasciamo per questa puntata di Maggi. Di Maggi. Maggi notturneschi. E ci sentiamo. Sì, ho detto una cosa orribile. Però Maggi ci sentiamo giovedì prossimo per una prossima puntata meravigliosa insieme. E noi vi lasciamo così. Buona serata. Questo è quanto. Tanti baci e tanti abbracci da Vintro. Ah, ecco, di nuovo baci e abbracci. Questo aspettavo. Io non vi mando niente, non vi mando. Vi mando solo buona musica. Buona musica. Vabbè, raga, giovedì. Aspetta. Sì, okay, sì, abbiamo, sì, detto, sì, tutto. Abbiamo, okay, detto tutto. Abbiamo detto tutto. Ok. Ciao. Buon ascolto. Here we go. Yeah. My lyrics like a hand missile, but you the elephant in the room, I can't miss you. The drama let me consume, I had issues. You went against the grain, did ass bitch. Got niggas so basic, face it, time wasted. Cookie cutter all in your flow, you not caking. Me on the other hand, something always in the oven. Fuck out the kitchen, wait until this shit is finished baking. You can smell it outside the crib, that money scent. Never believe a hoe when she tell me she love me bent. I've been around the block a few times. My passport tatted every song in cinema with new lines. Master H, clap your face, applaud you. Standing no, catch a case, but I'm called you. They criticize what I spit and shun what I gone through. Nigga hop from they passport, shocked when they haunt you. I could only be me though. Who the fuck you tryna be though? These bitches love me for me and give me deep throat. Niggas hating, she just being what she be though. Being me and getting paid for it. Get out of pocket and somebody gotta pay for it. I never force it on lay for it. This shit'll probably save your life, put a cape on it. Savage with it, you average with it. I master P the shit, you know I never had a limit. Never will, better meal, yeah, niggas broke. I'm the 89th key, so on a different note. We turn right into red carpets. But this ain't a photo op, your money is Photoshop. I teach them to hold a block, I don't rock, I overrock. Them hammers overstocked, yeah. Shots go off, I'm hot, homie. Police wanna stop my cause. Shorty open, all she wanna do is drop them drawers. Like a sequel that everybody waking on. Highly anticipated, you love me reciprocated. Never capitulated, stay till it's situated. Got on with sick enslaving, y'all faked it and never made it. The pressure we had him caving, the omen just called it David. I could only be me though. Who the fuck you tryna be though? These bitches love me for me and give me deep throat. Niggas hating, she just being what she be though. Being me and getting paid for it. Get out of pocket and somebody gotta pay for it. I never force it on lay for it. This shit'll probably save your life, put a cape on it.